L'amore mi teneva incatenato, ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare che turchino cielo, mi pare che lucente o sole, e o cuore canta pa felicità. Che la la, che la la, mo va dicendo che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi spare. Che la la, che la la, non sapo che piacere che mi fa. Bene figlia nata più bella e zetella resta ra. Che la la, che la la, che la la. A ieri m'ha mannato un biglietto pa figlia do portiere di rimpetto. Mi scrive che non è felice e che vorrei che mi fa pace, ma io mi sto gustando a libertà. Che la la, che la la, mo va dicendo che mi vuole assai. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi spare. Che la la, che la la, non sapo che piacere che mi fa. Bene figlia nata più bella e zetella resta ra. Che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, mo va dicendo che me vola sta. Se crede che me faccio sangue amaro, se crede che impazzisco e poi me sparo. Ai ai ai ai, che la la, che la la, non sapo che piacere che me fa. Me ne figlia nata più bella e zetella resta ra. Che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, che la la, tua, tua, tua, ah.